lavanda, Maserati Levante. Perennemente in ansia, perché ho fatto i danni. Mica parlo a caso, quanti rapper presi a schiaffi. Rifornisco il tuo naso, il tuo pusher s'attacca al cazzo. Ho frate fatti cazzi, che sono tutto fatto. Mai fatto il lavapiatti, mai riscaldato un piatto. Sei soltanto un montato, ti mangio panna montata. Dici solo cazzate, la tua vita è una cazzata. Sono in strada, mangio pasta come un italiano. Faccio la titanza in Calabria, sud Italia. Piccolo Valanzasca, son qui che conto condanni. Con chi sfogo la mia rabbia. Gloria NPT, ti fa come l'SD. Vuoi la gangsta shit, comprati il nuovo CD. Crimi, crimi, crimi, crimi, mi trovi su Lamborghini. Coi sotto i sedili, scanno sui rettilini. Collezionando crimi al giorno, ogni giorno il curriculum. Se in zona ci sono gli sbirri, cappiamo tutti dentro i cunicoli. Non ho mai butto la testa, stronzo, sono tipo testicoli. Caricatore a K, 2K per una giacca. Giri con una panda e mi chiami Maranza. Sì, sono un Maranza, se voglio ti compro casa. Rapina mano armata e poi bruciamo la macchina. Milano l'ecco in un attimo. Mio padre ignorante, mia madre badante. Voglio comprarle un attico, morirò ricco la tattica. Mi piace il culo grosso rifatto di plastica. Tette di plastica, stavo all'astrico, ora mangio astrici. Basta con le cazzate, vivi in un film di fantasy. Attento ai passi falsi, finisci chiuso in un pacco. Io non scendo a patti, faccio il cazzo che voglio. Sto fumando lavanda, Maserati Levante. Perennemente in ansia, perché ho fatto i danni. Mica parlo a caso, quanti rapper presi a schiaffi. Rifornisco il tuo naso, il tuo pusher s'attacca al cazzo.